CFD Production presenta. Un prodotto ideato e condotto da Frego, Diego e Dennis. Musica, informazione, curiosità e molto di più. E 60, l'informazione divertita. A volte la miglior musica è il silenzio. Ma vai via. Ma vabbè, mi piaceva, era bello, insomma, vero, dai. Già mi stai disturbando. Cosa ti disturbando? Ma non è male, però. Ma dove vuoi? Cominciare così, io mi vergogno. Io non lo so. Per fortuna abbiamo i microfoni abbassati. Che fai schifo. È una cosa assurda. Fai schifo. Oh, com'è che... Dai. Va bene così. Thank you. Ciao a tutti e benvenuti a 360, l'informazione divertita. E qui su Radio Sanonà 102.200 chi vi presenta è il DFD. Ciao, ciao. Ed ora vi presento anche subito con la D Denis, con la F Prego. E con la D di Diego. Bravo Diego. Buonasera, benvenuti a tutti. Buonasera, benvenuti a tutti a 360, l'informazione divertita, il programma che non serve a niente. Ci tengo a ribadirla questa cosa, che non serve a niente il programma, anche se alla fine diciamo tante cose belle, tante cose utili, soprattutto per i nostri amici a casa, per coloro che vogliono fare del giardinaggio, coloro che vogliono fare dello sport, dello shopping. Noi abbiamo i consigli utili per tutti. Quindi voi cos'è che dovete fare? Dovete contattarci. Adesso abbiamo operativa anche il nostro bel profilo di Facebook. E quindi dovete contattarci. Dove? Scovarci! Scovateci su Radio San Donà, la frequenza 102.200, numero di telefono 0421 560993 e il fax è 0421 560994. Potete ascoltarci in web radio su www.radiosandona.it, senza accento, mi raccomando. E invece se volete abbiamo anche profilo Facebook DFD Team 360, per gli SMS 348 41 62 771, e per le email dfd360@yahoo.it. mandateci tanti SMS, mi raccomando, tanti SMS. Ti ho detto di dire 360 in parola. Dato la patente. Che cosa, scusa? Chi ti ha dato la patente? La patente? Sì. E io l'ho trovata sulle patatine. Ho visto stamattina. Ho visto come ti facevi il parcheggio. Il parcheggio? Sì, sì. Ah, era la tua macchina, quella dietro, sì, che ho. Esatto. Avuta. Ah, scusa. Mi paghi i danni adesso. Va bene, com'è che dicono a Napoli? Oggi a me? Domani a te. È stato fatto fisso. Aspetta, la terza com'era? Quando vai a Castam. Quando vai a Castam. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti amici, bentrovati, bentornati, buongiorno a tutti. Ma perché abbiamo, perché stiamo parlando di te frego. E c'è? Ma dove l'hai trovata la patente, te? Dentro il lavoro di Pasqua. Dentro il lavoro di Pasqua, invece te Diego dove l'hai trovata la tua? Io non ce l'ho. Mi sembra giusto. Non l'ho trovata. Ma tutto questo perché? Tutto questo perché? Perché secondo un sondaggio condotto da TNS per assicurazione.it, questo sondaggio praticamente dice quali sono le infrazioni degli italiani che più fanno arrabbiare, o meglio le infrazioni stradali che più fanno arrabbiare gli italiani. Mortacci tua, esatto. Cioè, presente quando ti tagliano la strada, esatto. Quando ti tagliano la strada, ti fanno tutte le cose. Cornuto, eccetera, eccetera, no? E risulta quindi che quasi 6 automobilisti su 10 perdono le staffe a causa delle manovre pericolose. Cioè, tipo, non lo so, per esempio, manovre pericolose io troverei assolutamente normali, tipo un 360 gradi, logicamente 360, da buon 360. Ma no, la cosa più pericolosa per me per strada ora sono le rotonde. Le rotonde, cioè, ci sono molte difficoltà. Passa chi arriva prima. Vince la regola di chi passa più veloce. E attenzione, chi ha la macchina più grossa vince. È tipo la febbre del sabato sera. Esatto. Chi è il primo a girare? Cioè, senti sta musica sotto, la musica sottofondo, così che senti tipo lo squalo, no? Sì, allora vedi il tipo col non posso dirlo, col SUV. Tipo col SUV, no? E tu sei là con la tua vetturetta piccola da città, no? Che dici? E adesso lui ti guarda come per dire io c'ho il SUV. Che poi infatti adesso non è che guardi tanto la macchina, ma guardi sempre attraverso l'occhio di chi guida. Esatto. Guardi direttamente chi guida per dire oh mio Dio, l'ha visto o non mi ha visto. Allora, facciamo anche una raccomandazione, guidate piano per strada, state raccomandazione. Sempre attenti. Andate piano, che tanto è dimostrato scientificamente che andare 20 km orari in più fa risparmiare 30 secondi, non di più. Beh, vuoi mettere 30 secondi prima? Sì, ho capito, ma che fai in quei 30? Ma neanche 30 secondi. Cioè, fatto magari... è che risparmia anche benzina. In questi anni dipende quanta strada fai, ma soprattutto se io devo andare a incontrare Diego preferisco andare più piano, così lo vedo anche dopo. Esatto, io non ci vado nemmeno, sto a casa e non rischio la vita, risparmio il gasolio. Esatto. Ecco, ho dato un'informazione in più, la mia auto è a gasolio, quindi so che non ne frega niente a nessuno, però mi raccomando, scriveteci, mi raccomando, 348-412-41-62771 per gli sms, mi raccomando, mandateci tanti sms. No, è bello Dennis, no? Dennis, cosa facciamo? Andiamo con la tua stasera? No, sono senza benzina, e te vedo a gasolio. Però intanto questa scusa qua... Dai, tacca musica, vabbè, dai! Tacca musica, questa scusa qua, intanto io risparmio, mi faccio sempre scarrozzare. E ti è a voi. Sei un bidocchio. Sì, ok, va bene. Ti avevo detto di leggere 360 in parola. See, I had these walls built up so strong, but when I was young it was I won. But if I alone, stone upon stone, so tall I could not see beyond my wall. But you walls fall down, and you walls fall down. Bene, Bene, fare il bagno è di nuovo semplice. Diego, ha piovuto, sei contento? Adesso mi lavo anch'io. Siamo contenti tutti, visto che ti sei lavato, adesso non puzzi più come prima. Speriamo che la pioggia ritorni presto, e se non dovesse piovere, chi se ne frega. Esatto, usi il fiume. Dicevamo prima... Guardo le ciance che esatto, ormai, esatto. Ormai non mi sopporto più. Il sondaggio, eravamo ancora al sondaggio. Ah sì, allora, tornando al sondaggio, dunque, il 59% manovra pericolosa. Il mancata precedenza 52%, ostruzione della strada 41%, sorpasso a destra 34% e sosta in seconda fila 33%. Ecco, a Diego, a te la cosa che ti fa più arrabbiare qual è? Guarda, nessuno... Nessuno? No, in classificato? No, perché faccio tutto questo. Ok. Parto, sai qual è? Faccio tutto ciò. Grandioso, grandioso. Beh, naturalmente, sì. Stefano, invece tu, prego. Io ho trovato il sistema, perché la cosa che mi dà più fastidio è sentire Diego. Sì? Prova un attimo a parlare, Diego. Ecco. Perfetto. Come si sta meglio così? Basta, eh? Abbassare il volume. Oh, ma perché lo teniamo sempre basso? Basta abbassare il volume. Comunque, dicevamo, allora, innanzitutto, come potete sentire, perché qui siamo pieni di cose, qui la redazione di Radio Sandonà è eccessivamente fornita di notizie, ma io vorrei fare una cosa, un piccolo inciso, una piccola parentesi, una piccola, piccolissima parentesi. Vai, sentite la base, un calorosissimo saluto alla mitica Castellina Pasi! Grande applauso, ragazzi. Sempre, applauso, sempre tra noi, sempre tra noi. Grazie Castellina, rinnovo la speranza di averla qui in radio presto, prestissimo. Questa è una missione, ve la porterò. Ve la porterò, ce la porterai. E quindi cosa facciamo noi? Boh, andiamo avanti e facciamo zittire Diego. Bravo. Pronto. Vai. Send Me the Message dei Planet Funk. E proprio, questa canzone è stata fatta proprio per dire, per invitare tutti quanti a mandare i messaggi a noi, hai capito? Send me the message. In questo caso, send us the message, giusto? È giustissimo, ecco. Però ho già il telefonino intasato di messaggi, qui non so più. In realtà il messaggio era per Diego. Send me the message. Mandiamo un messaggio a Diego dicendo: stai zitto, Diego. Grazie. Ma che vuoi? Vuoi che abbassi il microfono? Dai, abbassi. Parla, Diego. Parla. Sì, parla, prova. 1, 2, 3. Che bello. Si riesce. Basta schiacciare questo. Ed ora il nostro appuntamento con le news. Malesia, catturato Diego di 7 metri. Ah no, ho sbagliato. Scusate, era. C'era scritto in una maniera un po' diversa. Malesia, catturato pitone di 7 metri. Aveva fatto strage di cani. Residenti di piccolo villaggio di Pogok, nello stato di Johor, a nord della federazione malese, hanno catturato un pitone di 7 metri. La cattura dell'ettile gigante ha risolto il caso di 11 cani scomparsi senza lasciare traccia negli ultimi 3 mesi. Il serpente è stato avvistato a Ali Yusuf, 35 anni, che in un stato di shock ha chiamato aiuto. Ne è seguita una battaglia di 3 ore tra 6 uomini e il pitone, che pesa 70 kg circa e ha un diametro, pensate, di oltre 60 centimetri. Alla fine il serpente è stato attaccato a un albero fino all'arrivo del dipartimento delle guardie forestali. Che bella, lei attenga un nuovo frutto in questo alberello. Ma ascolta, con che cosa hai concimato quest'albero? Ci ho buttato Dennis. Grazie. Prima mi date del maiale, poi mi date della deiezione solida. Io ho semplicemente detto che di Dennis non si butta via niente. Zitto, stalatico. Non te l'aspettavi. No, comunque, signori e signori, questa sera, signori e signori, è bello perché abbiamo i Coldplay, Clocks. ragazzotti, siamo arrivati alla fine della prima parte, quindi adesso non ce la faccio, come si... A me l'avvertimi. Comunque, Picciotti, siamo arrivati alla fine della prima parte. Adesso avremo uno stacchetto pubblicitario e poi ci ritroveremo. Questa è un'offerta che non vi potete rifiutare. Sempre se ci ritroveremo. Amonene, Picciotti, amonene. Andiamo a lavorare per la famiglia. Amonene. Mi sento dentro un tombino. Aiuto! Ah! Magari sono dentro un tombino. Dennis, allunga una mano. Tirami su. No. Diego! Prego! Dennis! Diego! Prego! Dennis! DFT! Dennis, dammi una mano! Ma come sei finito là sotto? Ma come ci sei finito là dentro? Sono scivolato dentro un tombino, qualcuno mi dia una mano! FDP. DFT. E ben ritrovati, cari amici ascoltatori. Questa è Radio San Donà, 102-200 la frequenza. Siamo qui, il DFD, Diego Prego Dennis, il DFD, tutti quanti insieme. Mi casa. Diego, Diego, ben ritrovati, Diego. Scusate un attimo, Diego, prego. Ma dove sei tu in questo momento? Sono dentro un tombino. E che cacchio ci stai facendo dentro un tombino? Non lo so, sono caduto. Ci vive. Allungatemi una mano, per favore. Veniamo a trovarti a casa, Diego. Sì, ascolta, casa. Ma lì com'è, umido? È un po', ma c'è posto per tutti, venite. È un altro mondo, è bellissimo, sono pieno di amici. Immagino tutti cioè tutti i pezzi di me, cioè un po' tutti un po' come noi. Viva noi. E adesso andiamo a parlare di cosa parliamo adesso? Beh, la sigla di quello che c'è sottofondo, abbiamo Supercar. Benissimo, ben ritrovati, ben ritornati alla rubrica che parla dei favolosi, mitici telefilm degli anni 80. Questa sera, come avete sentito dalla nostra sigletta, parliamo di Supercar, titolo originale Night Rider. Tutti in cicletta, che c'entra? Ah, cicletta. Ah, oh, bravo, bella battuta, bravo. Un applausino. Anzi, Supercar. Facciamo un applauso e mezzo. Peccato che non lo potete vedere, cari amici ascoltatori. Peccato. È sempre una chicca. Supercar narrava la gesta di un poliziotto, Michael Long, coinvolto in una sparatoria. Viene salvato per miracolo e subisce un'operazione di plastica facciale. Questo non lo sapevo perché io le puntate non l'ho mai viste dalla prima, quindi non lo sapevo. Quindi praticamente cambia identità e prende le sembianze del figlio di un miliardario, che non è altro che il mitico Devon, no? Eccetera, eccetera. Sì. Quindi adesso i vari interpreti, no? Devon, Michael Knight, che poi diventa appunto questo detective, e poi Bonnie, che sarebbe la meccanica, cioè quella che metteva a posto la macchina, insomma, di Michael Knight. Non era poi tanto Bonnie, comunque, sì. Appunto. Che fine hanno fatto? Se non mi sarei ricordato. Non ci sarei mai fatti. David Hasselhoff è stato per oltre 10 anni il bagnino più famoso e invidiato del mondo in Baywatch. Oh yes, of course. E adesso è ancora nel mondo dello spettacolo, dove fa il cantante e sta per produrre il film, appunto, che parlerà della mitica supercar, della mitica... Sì, che poi tanto mitica non era. Perché? Era una Pontiac Firebird Trans Am Model Year 1982. Sì, è vero, mi sono dimenticato. Sei venuto fuori, eh? Sì, no, sì, no. Sì. Ecco, era semplice coupé, neanche tanto sportiva. Fai l'effetto, intanto che parlo, fai l'effetto. Che effetto faccio? Wow, motore V8, 5001 cavalli. Basta. Ascoltiamo. Ma alberi averi infiniti quando sei qui vicino a me. Questo soffitto violano non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi. Oh, non so mica io. L'hai messa tu? No, io no. Madonna mia, ma basta, dai, basta. Ma io non lo so, dai. Cambiamo? Via, basta, via, basta. Via, basta, via, è ora di finirla, è ora di finirla, bisogna andare. Vai, non si porta più, non si porta più. Oh, così va bene, vai. Antico di Gramsbury Park, con un atrio lussuoso e un ascensore che saliva a sbalzi. Suonai il campanello dell'appartamento 8B e mi aprì un sergente maggiore in gonnella che mi introdusse in un salotto decorato in giallo, viola, verde, pisello e color terra di siena. Questa almeno fu l'impressione che ricevetti al primo sguardo. L'unica nota nera venne dalla donna che mi si fece incontro al mio ingresso. Il nero le donava i capelli biondo cenere raccolti in un nodo alla nuca, gli occhi azzurri e chiari e la carnagione pallida, molto curata. Non mi porse la mano, ma non aveva un'aria ostile. La signora... Basta, era di finirla. Lo uccido. Muori, bastardo. Sei morto? Forse. Salve! Salve, ben ritrovati. No. Tornato. Peckham dimostrò il suo sollievo all'idea. Basta, dammi qua, sempre solito. Aia, basta, dammi qua. Dai. Puttana, aia. Basta. Oh, là. Dai, ma non gli schiaffi però. Oh, finalmente. Buonasera e ben ritrovati a 360, l'informazione divertita e divertente. Informazione che naturalmente serve a tutti quanti i nostri ascoltatori, tutti quelli che ci ascoltano. Ricordiamo ai nostri amici ascoltatori che devono scriverci, devono venirci a trovare su Facebook, devono scriverci le mail, devono soprattutto ascoltare il nostro programma, perché è un programma assolutamente divertentissimissimo, con quantissimo. Allora vado con il dove scovarci. Questa è Radio Sandonà, la frequenza è 102.200, il numero è 0421-560993 e per il fax 0421-560994. Potete ascoltarci in web radio su www.radiosandona.it. E allora... Sapete cos'è successo? Cos'è successo? Vediamo se Diego è di nuovo in linea. Aspetta, proviamo ad abbassare. Diego, Diego, ci sei? Diego. Diego. Oh. Ma che stai a casa? Perché? Dovevi dare le... Noi stavamo dando i contatti, no? E dove scovarci? E tu eri tornato a casa. Li vuoi dare o no? E che ci fai? Dai, vai. Vabbè, ditemelo prima, no? Sono andato in bagno io. Vabbè, dai. Allora, mi sentite lì su? Sì! Mi sentite? Dunque, per le email dfd360@yahoo.it. Per gli sms, ci siete ancora? Sì! Dunque, 348-416-2771. Abbiamo anche il profilo di Facebook DFD Team 360. Vai! dichiarano questi? E questa che stazione è? È Radio Sandona di FD Team 360. Bravo, bravo, bravo. Direttamente dagli Stati Uniti una news. Guardate, questa è bellissima. Vai. La dico io. Vai. Dunque, USA, anatra data per morta, sopravvive 2 giorni nel frigo. Ma com'è possibile, no. Voglio dire? 2 giorni. Un'anatra centrata da un cacciatore e chiusa per 2 giorni nel frigo in attesa di essere cucinata è sopravvissuta all'Odissea. Come è sopravvissuta? Questo gli ha sparato. Questa è caduta giù, gli ha mollato i cani da caccia. L'hanno presa per il collo e per le ali. Come ti senti? È un po' indolenzita. Mo l'hanno messa in frigo e mo dopo 2 giorni... Cioè, come stai là in frigo? È un po' di freddo, vieni qua che adesso ti scaldo io. Ti prendo, ti scaldo io. Bella anche questa, ma da dov'è che viene questa notizia? Non a caso, da? Meglio che non ve lo dico. Ecco, vabbè, viene da, dall'America. Viene dall'America, vabbè. Ma non vi dico chi me l'ha data. Grande America, grande anche un po' per le cose. Il Funk So Brother, direi, appunto. A questo punto è Fatboy Slim. Vai che Fatboy Slim, mamma mia, ragazzi. Funk So Brother, right about now. Funk So Brother, check it out now. Funk So Brother, right about now. Funk So Brother, right about now. Il leone, sebbene non è possibile. Adesso mi è stato Diego Angela. Adesso dopo l'anno dei leoni, Diego Angela. Ma tu sei un leone perché sei del segno del leone, anche se sei un bambicetto fuori. Ma parliamo un po' di felini, no? Visto che siamo in questo ambito un po' di natura, ambient, e parliamo un po' di fauna. Sebbene la maggior parte dei felidi sia solitaria, i leoni sono invece noti per le relazioni di gruppo. Branchi che vanno da 4 a 20 leonesse occupano un territorio effusioni orgiastiche. Ma no, ma dai, ma scusa, cioè qui stiamo istruendo, cioè stiamo dando cultura, e tu, esatto, cos'è che fai? Mi parli di cose di effusioni orgiastiche. Esatto, no, scusa, no, sei sempre solito. Ma tu cosa vuoi, relazioni di gruppo? Relazioni di gruppo? Relazioni tra che vanno da 4 a 20. Ma è una cosa sociale, è una cosa, hai capito? Ma stanno ancora fortunatamente c'è sopraggiunto qui in Radio San Donà, sì, uno dei maggiori illustri e importantissimi naturolobiologi dell'università, naturolobiologi dell'università a Brookstax di Frankstax in Brooks, esattamente, sì, il professor Tonicellis Naturalis in Brooks. Bene, benvenuti questa sera. Ecco, io vorrei parlare un poco di del ghepardo. Il ghepardo e il leone sono gli animali felini che stanno in più sulle cose delle savane. Come si chiamano? Cosa? Dammi la mano. Il ghepardo si getta con uno slancio fulmineo, come la gazzella e i piccoli gnu. Soltanto la metà degli inseguimenti di caccia va però a buon fine. Talvolta i ghepardi sono prede del leone. Vai, che... vai, ah, oh, ah, porca, e va. Abbiamo ucciso il professore. Certo che ragazzi, vuoi invitare questi elementi? Io non li capisco proprio, basta, non è possibile. Oh, portalo via tu adesso. Meno male che c'è David Bowie. Portalo via. Che c'è David Bowie. Nascondi il corpo. Siamo tornati sempre qui su Radio San Donà 102.200, sempre più imbecilli e idioti di prima, perché ne abbiamo combinate sì di tutti i colori anche questa sera. Purtroppo le abbiamo finite anche oggi, vi abbiamo stressato, vi abbiamo stancato, scusateci. Sì, ma non è colpa mia, neanche è colpa tua, Dennis. È colpa di Diego, chissà dov'è finito, è sparito, non c'è più il radio. Comunque, in ogni caso, ringraziamo naturalmente il DFD, ringraziamo naturalmente il nostro mitico regista regista Frego. Grazie. Che come sempre è stato un grande la regia dietro quei bottoncini con le levette, con le cose. Sì, diciamo che la cosa che mi riesce meglio è fare casino. E quindi. No, ma questo è bello, è bello. È il bello del programma radiofonico, esatto, ragazzi. Esatto. È bello. Mi raccomando, tornate a sentirci naturalmente, tornate tutti. Io direi che possiamo quindi salutare tutti i nostri ascoltatori dando il dove scovarci. Questa è Radio Sandonà, è la frequenza 102.200, il numero di telefono 0421560993, il 4 finale per il fax. Potete ascoltarci in web radio su www.radiosandona.it. Invece, se volete mandarci un'email al dfd360@yahoo.it per gli sms 348-4162-771 e profilo Facebook dfd360. In parole. Ciao a tutti ragazzi, l'ho detto in parola. 360 in parola. Ciao a tutti ragazzi. A giovedì prossimo. Ciao gente, ciao. Mortecci tua!